Hitmaster! E la chirei dentro in Crazy Foxing. Crazy Foxing, Crazy Crazy Foxing. Crazy Foxing, Crazy Crazy Foxing. Na na na na na. Un documentario day by day che ti mostro che non godo di fair play. Non conosco questo mostro, non saprei. Rimane attaccato come cemento Mapei. Siete impietriti come a Pompei. Fate tutti guru come a Bombay. Ma comprate le rime su eBay. Adesso l'ho capito, questo è il circo Orfei. Vado di fretta, fate in fretta. Che io sono come Hannibal Lecter. Scandisco la vostra ora come fossi Villervetta. Adesso ti vedo depresso, così ti sei perso nel mio riflesso. Sei anche represso, fa lo stesso, perché tanto non riesci a starmi appresso. Vado profondo fino in fondo. Io vi affondo, motore di fondo, ma in fondo sono un pericolo come un vagabondo. Se questa vita mia finisce in autopsia, sotto casa mia ci sta la polizia. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a resto. Chiusi me stesso. Provo ad uscire, ma non ci riesco se non vi sento. Ogni concetto la testa comprende, ma non intercetto il pericolo. Dicono che nel dolore poi tutto si perde, se per il mio spirito. Certo il distacco, ma non vado in alto. Verso tre immagini nitide, dimmi se tocca rivivere il sogno di un altro. Qua l'iride arriva al suo limite. Vittima aspetta soccorso, poi inteso non esco mai illeso. Merito il mio lieto esito, ma non è lecito di ogni problema perdere il peso. Per il mio corpo porto disagio, ma ogni suo vizio mi prende in ostaggio. Per ciò che faccio non serve pentirsi, se la coscienza rifiuta il lavaggio. Un shock, sguarda, sente, si muove tutto in slow motion. Finita la pace, scoppiata la guerra, giri in stanza col Thompson. Stendo i miei guai, le tue offese, le ho prese, le smonto. Pretese sul conto di andarmene via, se l'ipocrisia di un'infama spostare l'asse del mondo. La fine giustifica i mezzi. Walter White, pensi di conoscermi, ma tu che ne sai, dai. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a dangerous. Oh oh, I'm a danger, I'm a we'll be right back.